Ma noi abbiamo fondato Mammut Film 20 anni fa, un po' con un'incoscienza di tarda gioventù. Siamo quattro soci, siamo io, Michele Mellara, Ilaria Malagutti e Francesco Merini. Già la composizione della società è strana, perché siamo tre registi e una produttrice. E produciamo documentari dal 2005, ne abbiamo prodotto più di 30 documentari, non tutti i documentari, ci sono anche alcune fiction, addirittura c'è una serie semi-anarchica che si trova ancora su Amazon Prime, e quindi ci sembrava importante festeggiare, perché in questi 20 anni abbiamo collaborato, vivendo e lavorando a Bologna, avendo scelto di rimanere a Bologna a fare cinema, abbiamo collaborato con mezza città, e quindi ci sembrava giusto restituire alla città tutto il lavoro fatto in questi 20 anni e ricoinvolgere collaboratori, amici e appunto Bologna stessa in una grande festa in vari luoghi, insomma ci spargiamo un po' su tutta Bologna. Alcuni di questi luoghi ce li puoi citare, Alessandro? Ma io cito soprattutto prima di tutto la festa, perché essendo il compleanno c'è la festa è il 15 novembre al TPO, inizia alle 6 del pomeriggio con due proiezioni, Le vie dei farmaci e Palestina per principianti, che sono due nostri film che andarono molto bene all'epoca, sono già un film che ha qualche anno, poi c'è un concerto dei Lu del Bello, una serata di danze con Mingo DJ, che sono appunto amici del Mammut, poi ovviamente c'è un'apparizione anche all'interno del Divisioni Italiane, quindi del Festival di Cineteca di Bologna, che parte la settimana prossima, dove presenteremo un nostro film che è Camp, nostro non di regia ma nostro di produzione, il film è diretto da Edoardo Gabellini, lo presentiamo l'11 novembre dentro Visioni Italiane, perché Visioni Italiane ha una sezione che si chiama Fare Cinema a Bologna, che non dico è stato inaugurato con noi, ma quasi, ecco, siamo quasi coetanei con quella sezione del festival. Poi ci sono incontri al Dams Lab, c'è il Cinema Galliera che ospita le nostre fiction, insomma andiamo un po' dappertutto. Sì, e per quanto riguarda invece, parliamo anche di contenuti di Mammut Film. Sì. Hai detto che è una produzione di documentari, e cosa, insomma, quale specificità è incentrata questa produzione? Ma allora, noi abbiamo un po' diviso le nostre presenze nei luoghi proprio per dare anche valore alle diversità interne alla nostra produzione. Faccio degli esempi: al Cinema Odeon il 30 novembre alla mattina c'è un film di Francesco, l'orchestra, Claudio Abbado e i musicisti della Mozart. Quello racconta di un filone di nostri film che sono dedicati all'arte, alla musica, e quella è una parte della nostra produzione documentaria. La più consistente però direi che sono la produzione legata a tematiche sociali, in particolare tematiche ambientali, le faremo al Filla, alla Montagnola, dove proietteremo God Save the Green, I'm in Love with My Car e Sponde, e poi c'è una parte diciamo invece più politica, più prettamente già questa diciamo sulle tematiche ecologiche, sulle tematiche ambientali, ha un taglio politico molto forte, ma ce n'è una anche più politica che si svolge appunto al TPO con Le vie dei farmaci e Palestina per principianti, e alla Casa della Comunità Porto Saragozza, che è praticamente l'ex Roncati, dove facciamo due film, La follia degli altri e Vivere che rischio, legati ai temi della salute pubblica, che è una questione che sta molto a cuore alla nostra produzione. Quindi diciamo che abbiamo due orizzonti, uno più sull'arte, la musica, e l'altro più sulle tematiche sociali con un taglio politico, e una cifra stilistica sempre molto ironica, non siamo mai grevi, ecco, nel nostro modo di raccontare le storie. Per quanto riguarda la possibilità di consultare il programma, immagino che in rete ci sia, insomma, se vogliamo dare qualche indicazione a chi ascolta. Allora sì, sul sito Mammut Film, www.mammutfilm.it, c'è una sezione dedicata col programma online, ci sono gli aggiornamenti, ci sono anche indicati tutti i nomi degli ospiti, sono tanti, non li sto a nominare. Tutti i partner che collaborano, e anche questi sono tantissimi, avranno poi la disponibilità e rimanderanno le informazioni sui loro siti. Radio Fujiko, che lei collabora col progetto, ospiterà le sinossi dei film giorno per giorno, e poi c'è questa bellissima cartolina che stiamo cominciando a distribuire per la città con un grande Mammut che ci ha realizzato in amicizia Design, che sono dei partner da vita direi, e quindi siamo molto grati a loro di questo bel oggetto che girerà per la città, per i luoghi dove noi proiettiamo e il film festeggiamo. 20 anni, il resto è preistoria, che è un po' sì, lo slogan che è a corredo di questa bella immagine. E chiudiamo con 20 anni, poi ci sono anche progetti futuri, no? Sì. possiamo addentrare in questo. Ci addentriamo nel futuro, c'è cioè la preistoria, c'è la storia. Appunto. Il futuro, abbiamo diversi progetti di documentari in sviluppo. È un momento complicato, come gli ascoltatori sapranno e tu saprai, per la produzione cinematografica, perché c'è un attacco diretto da parte del nostro governo al cinema e quindi è tutto molto sospeso. Noi stiamo, insieme ai nostri tanti amici che fanno documentari, fanno cinema, combattendo insieme alle associazioni di categoria per cercare di salvare e di difendere il cinema. Abbiamo dei progetti legati a questi grandi temi che ti dicevo, tematiche sociali e politiche. Stiamo lavorando da tempo su un progetto sul turismo, un altro sui ricchi, e poi invece tematiche più legate all'arte e alla cultura. Abbiamo anche qui un progetto su Carducci e speriamo di riuscire a metterli in sesto, a rimetterli in forma, ecco, perché questo sarebbe il segnale che il cinema continua a combattere, ecco. Ed è anche un bel regalo che fate a un pubblico attento, nonostante sia il compleanno vostro, però è bello, è giusto così. Io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo per questa conversazione e ti auguro una buonissima giornata. Grazie. Grazie a te.